Hashtag Autotrasporti. Buonasera ad Andrea Ferro, bentrovati ad Hashtag Autotrasporti del lunedì, il programma che Radio 24 dedica al mondo dell'autotrasporto in onda in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E subito la rubrica del numero. 27.000 sono i posti di lavoro persi nel settore dell'autotrasporto tra il 2008 e il 2012. Il numero di questa settimana è tratto dal rapporto Analisi e previsioni per il trasporto merci in Italia presentato nei giorni scorsi da Confcommercio nel corso del convegno Italia Disconnessa che si è svolto a Roma. È stata l'occasione per scattare la fotografia aggiornata del settore, un settore che arranca tra timidi segnali di ripresa e i conti ancora aperti con la crisi. 27.000 posti di lavoro in meno quindi e in buona parte determinati dagli effetti di un processo di delocalizzazione che altera il mercato e penalizza le imprese italiane. Paolo Uggè, presidente di FAI Conftrasporto, focalizza questo aspetto e lo quantifica. Noi stiamo perdendo quote di mercato a vantaggio dei trasportatori esteri, soprattutto quelli che provengono dall'est. Basti il dato che sono passati dal 7% al 47% dei traffici internazionali in ingresso in Italia, mentre gli italiani sono passati da una quota del 33% al 15%. Questo dimostra chiaramente che il nostro trasporto non è competitivo, non solo nei traffici internazionali, ma anche attraverso l'operazione di cabotaggio, cioè la possibilità di fare trasporti interni, che oggi è limitata da norme europee, ma se poi le norme non vengono controllate. Sul fronte della manodopera, il fenomeno che si determina è cristallizzato e ha assunto ormai dimensioni molto significative. Paolo Uggè lo spiega. Cooperative polacche, rumene, che affittano gli autisti italiani che vengono licenziati dalle imprese italiane, trasferiti presso queste cooperative e riassegnati alle stesse imprese. È una forma di delocalizzazione che non è proprio regolare, perché pagano le tasse là, ma non solo, ma i contributi che vengono versati ai lavoratori sono contributi polacchi, e cioè sicuramente di molto inferiori, e quindi questo riduce il costo del lavoro. Dicevamo di timidi segnali di ripresa, cioè nel settore dell'autotrasporto dopo anni di sofferenza si assiste ad un'inversione di tendenza. Per il 2015 si parla di una crescita intorno all'1,6%. Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, analizza questa prospettiva. Finalmente si vede un po' di ripresa, ora bisogna trasformare questa ripresa in crescita, possibilmente sviluppando attraverso la riduzione delle imposte, se ci sono spazi, e la domanda interna. Infatti anche in termini di trasporto vediamo che quelli legati ai traffici internazionali, quindi alle esportazioni e importazioni, vanno meglio, quelli invece di trasporti legati alla domanda interna hanno dei tassi di variazione ancora intorno al 0,5%. Come ci dice la stessa Commissione europea nelle raccomandazioni, dobbiamo migliorare la nostra capacità di trasporto, la nostra efficienza logistica, perché sono elementi trasversali da cui dipende la competitività di tutto il Paese. Quindi per agganciare la ripresa occorre una programmazione, un gioco di squadra tra tutti i soggetti in campo. Insomma, molto dipende dalla capacità di fare sistema. Concetti che ricorrono in queste settimane a proposito delle linee guida del piano della portualità che il governo si appresta a varare. Sul tema delle infrastrutture, il nostro Francesco De Remigis ha sentito Pasquale Russo, segretario nazionale di FAI Conftrasporto. È fondamentale che il nostro Paese si doti di un piano nazionale della logistica, come sembrerebbe che debba avvenire da qui a tempi brevi, e soprattutto il nostro Paese deve cominciare ad adottare una vera politica industriale dei trasporti, perché senza una visione di quello che vuole essere il ruolo che l'Italia vuole giocare nel settore dei trasporti, questo sarà un settore che scomparirà, e non scomparirà come sta già avvenendo soltanto il trasporto su gomma, ma scompariranno anche i grandi player che lavorano nella portualità e nella ferrovia. Quanto riguarda i porti, il governo ha annunciato e reso noto parte di quelle che saranno le novità. C'è stata una consultazione oppure ancora non siete riusciti a dare tutte le indicazioni che avreste potuto e forse voluto dare? Ma diciamo che noi non siamo avvezzi a seguire i tweet, e quindi non seguendo i tweet non abbiamo avuto modo di dare il nostro contributo fino in fondo. Voglio però evidenziare un aspetto importante, che un rappresentante della Confcommercio ha partecipato al comitato di esperti indetto dal ministro Lupi, che ha redatto il piano nazionale della logistica. Però adesso si pone una domanda: quel comitato di esperti nominato dal ministro Lupi, che ha prodotto un risultato, che ha contribuito a redare il piano nazionale della logistica, sarà poi mantenuto dal ministro Di Rio, o il ministro Di Rio riterrà di dover fare cose diverse dal suo predecessore? Stasera abbiamo in linea Rodolfo De Dominicis, presidente di UIRNET. Buonasera De Dominicis. Buonasera. Nei giorni scorsi a Piacenza avete presentato Fast Corridor, cioè la prima sperimentazione in Europa di sdoganamento telematico mentre le merci sono in movimento a terra. Ci spiega di che cosa si tratta? Si tratta di una operazione di velocizzazione definitiva delle merci provenienti di interesse doganale che, provenendo in container, diciamo, dall'estero, arrivano nei porti di Genova e La Spezia e vanno a sdoganare direttamente alla destinazione finale, che è il magazzino di temporanea custodia dell'IKEA a Piacenza, senza fermarsi all'interno dei porti rispettivi di arrivo e mantenendo in ogni caso in atto tutte le attività di controllo doganale, di rischio doganale e non, della merce. Quindi c'è uno snellimento dei tempi notevole? C'è uno snellimento delle procedure, un abbattimento dei tempi, un aumento dell'efficienza, un aumento complessivo della competitività e soprattutto c'è il fatto che i grandi operatori internazionali possono pensare di venire in Italia a sdoganare per venire in Italia stessa o per altre destinazioni Schengen e non andare in altri porti che sono normalmente quelli verso cui vanno. Per conto del Ministero, UIRNET gestisce la piattaforma informatica varata proprio per migliorare la gestione della logistica e del traffico merci. Potremmo dire che con l'informatica si provano ad accorciare tempi e strade laddove quelle fisiche, e parliamo di infrastrutture, restano inadeguate e per costruirne di nuove i tempi sono infiniti. Il nostro paese ha bisogno di infrastrutture per il sostegno al delta PIL positivo nelle parti del paese in cui più ricche e avrebbe bisogno di infrastrutture per lo sviluppo nelle parti più povere, parlo del Mezzogiorno. In ogni caso, come lei ha detto bene, per avere queste infrastrutture occorrono tempi estremamente lunghi, troppo lunghi, in ogni caso non compatibili col fatto che ormai il mondo sta ripartendo e quindi c'è necessità in ogni caso di reagire. UIRNET gestisce il flusso delle merci per Expo. UIRNET in sostanza gestisce il flusso delle merci per Expo, in particolare con un modulo denominato MDS, che è il modulo che in sostanza determina la gestione ingresso e uscita dall'area di Expo, diciamo, delle merci provenienti essenzialmente sempre, diciamo, dalla Spezia o da Genova. Nel senso che UIRNET ha realizzato e sta gestendo il modulo di ingresso uscita delle merci, diciamo, dai gate di Expo durante la notte o comunque nel periodo che arriva fino alla mattina prima che cominci l'arrivo, il flusso di arrivo dei visitatori. Rodolfo De Dominicis, presidente di UIRNET, grazie e buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Stasera la rubrica dedicata ad un trasporto particolare, diciamo così, sale sul palcoscenico, cioè ci occupiamo di trasporti teatrali, praticamente una corsa contro il tempo tra un teatro e l'altro. Ce la racconta Fabio Porcacchia, titolare di una ditta specializzata. I nostri ragazzi aspettano che i macchinisti, i elettricisti smontano una scena, dopodiché la carichiamo e abbiamo delle ore prestabilite, si inizia a mezzanotte, si finisce sempre intorno alle 3 e entro le 7 del giorno dopo dobbiamo stare alla città successiva per scaricare e un susseguirsi, ecco, di queste cose. Carichiamo la sera, scarichiamo la mattina, però abbiamo degli orari prestabiliti, se non rispettiamo quegli orari poi diventa problematico montare le scene. Trasportare scenografie significa caricare qualcosa di molto delicato. Abbiamo i camion coinventati con moquette, copriamo con delle coperte speciali, dipende poi dalle scenografie e dalla delicatezza delle scenografie. Con il tempo anche questo lavoro è cambiato.